Sono Gerlando Gatto e questo è A Proposito di Jazz, uno dei primi, se non il primo podcast italiano dedicato alla musica jazz e dintorni. Il progetto nasce con l'intento di raggiungere un pubblico sempre più vasto di persone interessate al jazz italiano, ma non solo. Pubblicheremo quindi interviste, commenti e contributi sulla storia del jazz sulla base dell'esperienza da me maturata in tanti anni di professione come cronista musicale e docente. Ad oggi non ci sono scadenze precise, pubblicheremo i contenuti e vi avviseremo di volta in volta. Quindi iscrivetevi al podcast su iTunes e seguiteci online sul sito www.online-jazz.net, sulla pagina Facebook facebook.com/onlinejazz e sul profilo Twitter @onlinejazz. Buon jazz a tutti!